più un sonnifero, ha più un sonnifero, ha più un sonnifero. Fatte a pezzi come atroci vendette, spettacoli raccapriccianti che solo tu a più un sonnifero mi fai dormire comunque dei guai, a più un sonnifero. Storie rifritte, ritratte e poi tratte non dette di schiavi. Vendendo merci a più un sonnifero, per strade tossiche e per mare. Strade misteriche che fanno gallere di morte. Gabbie di camere sempre più morte. Siamo schiavi a più un sonnifero. Schiavi di te, della tua beltà e purezza, piccola ninfa più un sonnifero. Siamo schiavi di te, del tuo dolce zucchero. Noi eroi, più un sonnifero.